787. Funghi sott'olio. Scegliete funghi porcini, chiamati altrimenti morecci, i più piccoli che potete trovare, e se ve ne fossero frammisti dei grossi quanto le noci, di questi fatene due parti. Dopo averli iniettati bene dalla terra e lavati, fateli bollire per 25 minuti nell'aceto bianco, ma se fosse molto forte, correggetelo con un po' d'acqua. Tolti dal fuoco, asciugateli bene entro un canovaccio e lasciateli all'aria fino al giorno appresso. Allora, collocateli in un vaso di vetro o di terra invetriata, coperti d'olio e con qualche odore che più vi piaccia. Chi ci mette uno spicchio o due di aglio mondati, chi alcuni chiodi di garofano e chi una foglia di alloro che si può far bollire fra l'aceto. Si usa mangiarli con l'esso.